ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Commenteremo anche i dati, GR24 li ha ricordati, appena arrivati, il nuovo record assoluto di contagi in Italia. Attenzione, i tamponi sono ancora record, sono 163.000, quindi sono più di tre volte quelli che si venivano fatti a marzo e aprile. Però noi guardiamo sempre i dati clinici, e quindi adesso sto aspettando i dati sulle terapie intensive e i ricoveri in generale. Perché? Perché i casi sono stati 8.804, cioè 1.500 più di ieri. Però, ripeto, i tamponi sono 163.000. Il problema è che sono raddoppiati in un solo giorno i morti, da 43 a 83. E anche qui bisognerebbe capire, un raddoppio del genere, a mia memoria, negli ultimi mesi non si era mai avuto. Adesso vedremo anche i dati clinici. Nel frattempo c'è il Consiglio europeo, che è stato in qualche modo azzoppato dal fatto che Ursula von der Leyen ha dovuto lasciarlo. È entrata alle 4:15 la Presidente dell'Unione europea, della Commissione europea, ed è uscita dopo mezz'ora perché ha dovuto mettersi in quarantena, in autoisolamento per essere corretti, perché c'era un membro del suo staff risultato positivo. E così come vi hanno già detto i nostri GR24, che anche Kamala Harris, quindi la candidata alla vicepresidenza americana di Joe Biden, si è messa in autoisolamento perché due membri del suo staff sono risultati positivi al Covid. Attendiamo i dati sulla Francia, è chiaro che tutti guardiamo quello che è successo in Francia con l'annuncio di Macron di ieri sera. Ieri la Francia ha avuto quasi 23.000 nuovi contagi in 24 ore, con 104 decessi, ma soprattutto Macron ha annunciato un coprifuoco nella regione di Parigi e in altre città grandi, perché Lille, Grenoble, Lione, Aix-en-Provence, Marsiglia, Montpellier, Rouen, Tolosa e Saint-Étienne, ecco, vivono circa 20 milioni di persone, quindi un terzo della popolazione francese, e quindi coprifuoco dalle 21 alle 6. Chiaramente c'è lo sconforto e la rabbia del mondo della ristorazione, dei bar e di tutti gli esercizi commerciali che lavorano in quell'orario. Chiaramente, scorrendo anche le notizie che arrivano dalla Francia, molti ristoratori dicono aprire solo per il pranzo, cioè per mezzogiorno, dover essere chiuso dalle 21 in poi significa non lavorare, perché i clienti arrivano a quell'ora, non vengono a mangiare le 6:30 alle 7 di pomeriggio. Il punto è obiettivamente importante, perché è inutile girarci attorno. Questa volta l'Italia, da un lato, per fortuna non è l'apripista come è avvenuto a marzo e aprile, ma dall'altro lato è chiaro che noi andiamo a guardare quello che fanno Francia e Spagna in base al numero di casi avuti, e quindi o questa cosa si riesce a bloccare anche in Italia, o qui fra 2-3 settimane, un mese, non lo so, ma temo che arriveremo a dei lockdown mirati. In Francia vi sono 12.000 poliziotti e gendarmi che saranno incaricati di verificare i divieti. C'è una multa che va da 135 euro per chi va a violare il coprifuoco, poi le recidive vanno a aumentare e arrivano fino a 6 mesi di carcere, 3.750 euro di multa se vieni beccato per la terza volta a violare il coprifuoco. In Regno Unito c'è stato un nuovo record, sfiora i 20.000 casi, 19.724 in 24 ore, con quasi 140 morti. L'altro ieri 143, la cifra più alta da giugno. E anche Londra passerà, da partire da sabato a mezzanotte, allo stato di allerta alto. In Germania sono 6.638, che mai così tanti da quando è un nuovo record di contagi da inizio epidemia. E Angela Merkel ha annunciato nuove restrizioni e un aggiornamento fra 10 giorni. Nel frattempo tutto questo ha un'ovvia ricaduta, impatto economico. Ryanair ha chiuso 3 basi e ridotto i voli invernali al 40%, United Airlines ha annunciato un rosso da quasi 2 miliardi di dollari nel terzo trimestre. Ora, in una giornata del genere, visto anche il tempo in buona parte d'Italia non clemente, verrebbe voglia di mettere un po' di musica e chiuderla qui, e invece no, perché qualche buona notizia c'è. Faccio notare che Standard & Poor's, l'agenzia di rating, ha migliorato un pochino la previsione sul crollo del PIL italiano quest'anno, portandolo sotto il 9%, l'8,9%. È interessante la motivazione, perché dice: anche se l'Italia ha avuto una ripresa dal lockdown più lenta di altri paesi, il rialzo dei casi Covid, finora più contenuto, potrebbe migliorare la spinta dei consumi del terziario. In sostanza è molto semplice il discorso. È chiaro che in Francia, quando tu adesso hai 20 milioni di persone che per 4 settimane e probabilmente 6 avranno il coprifuoco dalle 21 di sera alle 6 di mattina, questo creerà un danno economico ulteriore rispetto alle previsioni anche francesi. Ora, più l'Italia riuscirà a tenere i lockdown o molto mirati, ho visto oggi 2 paesi non grandissimi in Alto Adige che diventano, che vanno in lockdown mirati, e mantenere l'attività commerciale con tutte le precauzioni del caso, è meno grave sarà l'impatto di questa seconda ondata. Perché poi vedo molte domande, molti ascoltatori che mi chiedono: ma perché non è stato fatto? Allora, io abbiamo fatto un approfondimento sull'assenza di terapie intensive, il ritardo delle regioni del sud, in primo luogo il rapporto che il governo stabilisce in 14 letti su 100.000, che è presente solo in Friuli, Veneto e Val d'Aosta. La Lombardia arriva a 10, la Calabria è a metà, è a 7 posti, e 14 la soglia stabilita dal governo, che aveva stanziato 1.300.000.000 per i posti. E c'è stato un ritardo. Ho visto che il commissario Arcuri ha mandato dei ventilatori, in 140 ventilatori in Calabria, ma voglio dire, lì poi sarebbe importante anche avere un punto magari del commissario stesso, non per dare l'attribuzione di colpe, ma che qualcosa che purtroppo, come avviene in questo paese, che reagisce molto bene con l'emergenza, è un po' come la nazionale di calcio, gioca bene quando, o meglio, dovrebbe giocare bene quando è più difficile, è il famoso paradosso, e poi quando l'emergenza è passata tutti ci rilassiamo, vale per l'Italia, vale chiaramente anche per la Francia, la Spagna e la Gran Bretagna con quello che abbiamo visto. E così come un ragionamento analogo si potrebbe fare anche per il trasporto locale, che adesso vedo essere il tema di confronto tra governo e regioni. Ci sono 20.000 circa bus turistici fermi da 7 mesi. Gli autisti sono in cassa integrazione. Ora, prima di arrivare adesso a dire iniziamo di nuovo a fare la didattica a distanza, che spero di non arrivarci mai, tranne i casi, diciamo, in cui devi mettere in autoisolamento una classe perché c'è un caso conclamato di Covid, forse ci si poteva pensare, perché magari utilizzare questi lavoratori in cassa integrazione e affiancarli al servizio pubblico di trasporto, non lo so, nel momento dei picchi e soprattutto delle grandi città. Lo ha fatto notare l'ASTRA, l'Associazione delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale, perché dice: per soddisfare una domanda attesa di mobilità pari all'85% rispetto al pre-Covid, sarebbe necessario un incremento del 70% del trasporto urbano e 42% extraurbano. Sarebbero necessari 19.000 bus aggiuntivi e 31.000 conducenti, per un costo complessivo di 1,6 miliardi. Ora, magari un'idea poteva essere quella di utilizzare i bus turistici. Non faccio io il responsabile. Quello che sto dicendo è che gli enti locali, comuni, regioni, si sono fatti trovare anche... non ho visto nessuna iniziativa in questi mesi. Eravamo concentrati giustamente sui banchi con le rotelle della scuola, e però non ho visto nessuna iniziativa. Forse ci si poteva pensare un po' prima, e forse sarebbe anche importante capire dove si è inceppato il meccanismo, sia sulle terapie intensive che sulle terapie subintensive, perché i medici fanno notare che in questo caso, avendo pazienti che arrivano prima rispetto a marzo-aprile, l'affollamento si sta generando soprattutto non nelle terapie intensive, ma nei posti letto normali o subintensivi, perché non sono così gravi. Però se il commissario Arcuri ci facesse sapere a che punto è la sua attività, non semplicemente rispondendo con comunicati stampa, e se con le regioni si chiarisse perché non è stato possibile prendere, almeno nelle città grandi, delle soluzioni emergenziali. Ho citato, perché ho visto il commento di Astra, e il caso dei bus, non dico che quello possa risolvere tutto, però insomma, avere 20.000 bus turistici fermi da 7 mesi e autisti in cassa integrazione forse poteva essere almeno quello un'idea, anche perché se portiamo il trasporto pubblico locale al 50%, come ha calcolato appunto Astra, rischiamo di lasciare a terra 275.000 persone ogni giorno. Ma va bene, si fa per dire così. Adesso ho anche i dati clinici del bollettino quotidiano, che tra l'altro, secondo me, lo dico più dal punto di vista della comunicazione, forse anche ripartire con un appuntamento, non dico alle 18 con il commissario Borrelli, che però insomma, che spiegasse bene questi dati, cioè il rapporto sui tamponi, il rapporto e quanti sono i sintomi, quanti sono tamponi che vengono fatti per la seconda o terza volta, quanti sono i nuovi, o forse sarebbe d'aiuto, lo dico, per le prossime settimane. Allora, i ricoverati con sintomi sono 326 più di ieri, le terapie intensive a 5.800 persone, le terapie intensive sono 586, quindi 47 più di ieri, e il trend continua a essere così. Devo dire che oggi la cosa più che colpisce di più è il raddoppio dei morti, da 43 a 83. Ripeto, la Francia viaggia a 1.800 terapie intensive, siamo ancora a un terzo delle terapie intensive della Francia occupate per Covid, e a un terzo dei contagiati con sintomi, delle persone che vengono trovate con sintomi, così come i ricoverati sono 326 più di ieri, sono 5.796, 5.800, ecco perché dico che la pressione è soprattutto sulle strutture cliniche. Vedo che comunque tutti quelli che parlavano di un virus clinicamente scomparso, e anche lì magari prossima volta aspettare, contare fino a 10, stanno zitti in questo periodo, e va bene. Evidentemente il virus nemmeno clinicamente è scomparso, purtroppo. Di cosa ci occuperemo oggi? Del Consiglio europeo, e soprattutto del fatto che l'Italia oggi dovrebbe presentare a Bruxelles non tutti i dettagli, ma l'architettura più dettagliata del recovery plan. L'appuntamento era oggi, e poi sappiamo che c'è tempo fino ai primi di gennaio per dare i dettagli di quello che poi sarà analizzato sia dall'Unione europea che dai singoli stati. Parleremo anche di turismo. So che può sembrare strano in questo periodo, però è iniziata ieri, finirà domani, la manifestazione più importante in questo momento in turismo, TTG Travel Experience, che si tiene ogni anno a Rimini. Si è tenuta anche la 70ª assemblea nazionale in occasione della fiera di Federalberghi. 200 albergatori provenienti da tutto il territorio italiano, e anche il presidente della regione Emilia Romagna, il rappresentante Bonaccini, e il sottosegretario al turismo Bonaccorsi. Ci sono dei dati, insomma, sono 250.000 le presenze in meno per quest'anno. Il dramma riguarda anche i tour operator, cioè noi parliamo sempre di alberghi, ristoranti, bar, e giustamente, però c'è tutta la categoria delle agenzie di viaggio, dei tour operator. E quelli giustamente oggi hanno detto: noi siamo in lockdown da marzo, cioè io sfido chiunque di voi a segnalarmi se è stato in questi mesi in un'agenzia di viaggio. Tra le prenotazioni online, tra il fatto che i viaggi all'estero si sono rarefatti, per non dire scomparsi, a maggior ragione i viaggi a lunga distanza, a lunga percorrenza, un po' perché in alcuni paesi non te fanno entrare, in altri vogliono la quarantena e quant'altro. C'è anche la categoria dei tour operator, che tipicamente lavorava con viaggi più articolati, no? Non semplicemente il biglietto aereo o la prenotazione alberghiera, che è in ginocchio da marzo. I dati diffusi sempre nel mondo del turismo vedono solo il 60% degli italiani quest'estate è andato in vacanza, la scorsa estate, contro il 75% dello scorso anno, mentre la Banca d'Italia fa notare che le spese degli stranieri hanno fatto meno 45% solo nel mese di luglio. Parleremo di questo e anche del settore fieristico. del recovery fund, a che punto sia, del recovery plan, a che punto siamo, a che punto è l'Italia. Da quello che si era capito già oggi, si sarebbe potuto illustrare, lo avrebbe fatto il ministro Vincenzo Amendola a Bruxelles, i contenuti del piano italiano, all'apposita task force costituita dalla Commissione Europea. Parleremo anche dell'assemblea dei giovani imprenditori che si apre domani a Roma e non a Capri per motivi ovviamente di Covid. E daremo come sempre un aggiornamento dei mercati. Qui apro una brevissima parentesi: i mercati vanno male oggi, male Milano che torna ai livelli di fine settembre, 19.000 punti, meno 2,66%, male anche Francoforte, meno 2,50%, Parigi meno 2,10%, hanno un po' recuperato, i cali arrivavano al 3%, Londra meno 1,60%, Dow Jones meno 0,42%. Che cosa succede? Beh, insomma, negli Stati Uniti non si riesce a trovare un accordo sul piano di stimoli per l'economia. In Europa c'è il tema Brexit, per cui ci mancava solo la Brexit quest'anno. Anche oggi Angela Merkel ha detto: vogliamo un accordo, ma non ad ogni costo. E Boris Johnson, a mio avviso, sempre più nel pallone, non si capisce che cosa voglia fare con sta Brexit. E poi il lockdown. È chiaro che prima o poi le borse andranno a prendere atto del fatto che se tu chiudi 20 milioni di francesi, per esempio, per un mese in casa dalle 9 alle 6, è un impatto economico da qualche parte ce l'hai. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Partiamo con il viaggio invece che stiamo facendo, che Radio 24 fa assieme a Intesa San Paolo in Italia, sulle imprese vincenti. E quindi stiamo andando in giro per l'Italia a verificare e a raccontare delle 4.000 imprese che si sono candidate, le 144 che sono state selezionate. La tappa questa settimana è un digital tour, quindi è molto virtuale, è stata a Napoli per avere anche un focus sul tessuto produttivo, oltre che della Campania, anche della Calabria e della Basilicata. Devo dire che quello che è emerso è che questi territori stanno puntando, per quanto riescono, anche su innovazione e internazionalizzazione, come ci racconta il nostro Andrea Ferro. La crisi picchia duro anche al sud, ma ci sono settori come l'agroalimentare, con 115 prodotti riconosciuti nelle certificazioni DOP, IGP e STG, e la farmaceutica, che frenano la caduta del PIL. Tra Campania, Calabria e Basilicata, filiere, sostenibilità e soprattutto innovazione sorreggono il tessuto economico e sono le chiavi di volta per innestare la ripartenza. Prospettive focalizzate nel corso del Digital Tour di Imprese Vincenti, l'iniziativa di Intesa San Paolo, per valorizzare le piccole e medie imprese. Questa settimana tappa a Napoli, l'innovazione si diceva un driver fondamentale per questi territori, in sinergia con le università. Giorgio Ventre è docente di sistemi di elaborazione delle informazioni alla Federico II. Come se ci fossero più sud contemporaneamente, con delle aree a macchia di leopardo dove ci sono delle vere e proprie eccellenze, di livello non soltanto italiano, ma di livello assolutamente europeo. Le università hanno un po' fatto da trincea per mantenere questa capacità nel mezzogiorno di fare sia formazione, sia innovazione che ricerca. E quindi intorno a questi atenei si sono anche create dei veri e propri luoghi di innovazione, come il distretto dell'Information Technology, che è a Cosenza con NTT Data, che ha una presenza significativa, il distretto aerospaziale, che è presente sia in Campania che in Puglia, di grandissima qualità e che non a caso nasce intorno alle università baresi e all'Università di Napoli Federico II. Distretto IT campano, con quello che stiamo facendo a San Giovanni, diciamo, con Apple, con Cisco, con Accenture, con altre grandi aziende, grandi player mondiali. Grazie a questa effervescenza nell'innovazione, alla fine la crisi può risultare una vera opportunità? Sono sicuramente ottimista. Credo che però il Sud debba essere considerato anche come un'occasione a livello paese, cioè nel senso, è noto che l'Italia è un paese che ha sempre avuto una grande capacità di produrre innovazione, ma anche un paese estremamente conservatore nell'adozione dell'innovazione. Per cui, diciamo, io credo che questa opportunità che noi abbiamo di usare in maniera efficace queste risorse debba essere veramente presa da tutto il paese, e il Sud quindi potrebbe diventare non soltanto un luogo dove si sviluppa innovazione, ma dove anche si mette in pratica l'innovazione, dove la si compra. E ora due testimonianze di imprese vincenti sul fronte dell'innovazione di prodotto e di processo. Con sede a Casalnuovo di Napoli, Industry AMS è specializzata nella realizzazione di linee di automazione industriale. Roberto Impero è l'amministratore delegato. Nelle due divisioni di business cerchiamo soluzioni innovative, soluzioni infatti spesso brevettabili, che possano quindi poi per una piccola media impresa come noi garantire un posizionamento. Nel nostro caso cerchiamo di avere quelle particolarità, quell'unicità in tanti fattori, nella produzione, nel prodotto finito o anche nel processo che porta al prodotto, in modo da poterci distinguere e mantenere la presenza, anzi acquisire fette di mercato. Le prospettive per un'azienda come la nostra sono di sviluppo, nel senso che siamo in Campania, non è un territorio facile, ma è un territorio dove ci sono moltissime realtà di eccellenza. Abbiamo una sede in Brasile, una sede in Germania e a breve avremo uno stabilimento produttivo negli Stati Uniti. De Matteis è un marchio dell'agroalimentare che viaggia in tutto il mondo. La sede è a Flumeri, in Irpinia. Marco De Matteis è l'amministratore delegato. L'azienda da circa 10 anni ha cercato di mettere in atto una strategia per certi versi nuova, ovvero quella di integrarsi con la filiera agricola. E abbiamo quindi studiato e poi creato una filiera con gli agricoltori italiani per la produzione di un grano 100% italiano di altissima qualità. Questa filiera, che è denominata Armando, ci ha garantito l'approvvigionamento di una materia prima di eccellenza e grazie a questo stiamo sviluppando prodotti di qualità che commercializziamo sia con i nostri marchi sia per grandissime catene in Italia e nel mondo a private label. L'export incide l'85%. Stati Uniti sono il primo mercato, dove abbiamo aperto una filiale commerciale nel 2018. Altri mercati di sbocco sono ovviamente tutta l'Europa, in particolare il Nord Europa, i paesi scandinavi e la Gran Bretagna, e anche l'Asia, che sta crescendo negli ultimi anni. È un mondo difficile. E vita intensa. Felicità. Mi sembra tema. E futuro incerto. Il fuoco e l'acqua con certo calma. Allora, almeno raccontiamo anche casi positivi di imprese che continuano ad andare avanti. Vedo che il ministro Patuanelli ha detto che lo stop ai licenziamenti non. Lui ritiene che il percorso fatto fino adesso, cioè cassa integrazione e blocco dei licenziamenti, non possa essere prorogato ulteriormente. Nel frattempo sono saliti a 11 contagiati anche tra le guardie svizzere, la dice lunga. Mentre per quello che riguarda i contagi, la Lombardia stacca, e non è un primato positivo, le altre regioni, perché oggi ne ha registrati 2067. Poi bisognerebbe capire, però anche qui, per quello che io dico, fate una conferenza stampa, spiegateci un po' meglio, perché l'ANSA così non mi dice niente. Devo capire, 2067 contagi, per quanti tamponi effettuati e qual è la percentuale su 100.000 abitanti, visto che la regione Lombardia ha 10 milioni di abitanti, perché segue la Campania con 1.127, Piemonte con 1.033, Veneto ne ha 600 come Lazio, Toscana 580. Però se non mi date la proporzione, non l'ANSA, tra contagi tra positivi e numero di tamponi effettuati, magari scopriamo che la Campania in proporzione alla popolazione ne ha fatti o il doppio o la metà. E poi a questo punto anche il numero di positivi per tamponi effettuati in base alla popolazione. Questi sono i rapporti che servono. Io non capisco, perché sennò poi montano anche le polemiche. Lo dico al governo, lo dico al commissario Arcuri, alla protezione civile. Trovate un modo per comunicare se dobbiamo andare avanti così. E comunicare anche perché la sensazione che abbiamo è che le regioni o gli enti commissariali abbiano fatto trascorrere del tempo, magari occupandosi di banchi, della scuola, che per carità era anche una priorità, ma non immaginando la seconda ondata. Cioè questo lascia perplessi. Devo dire che la polemica c'è anche in Francia, c'è anche in Spagna e in Olanda, in Belgio, però non è che mi faccia star meglio la cosa. Cioè, come se tutti quanti, dopo averlo raccontato, non avessero fatto nulla. Nel frattempo sono stati condannati a 6 anni per una vicenda Leggo, anni di reclusione a Milano, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, gli ex presidente e l'ex ministro legato del Monte dei Paschi, per un filone dell'indagine sulla banca senese, non dice altro l'agenzia, e gli è stata comminata anche una multa da 2 milioni e mezzo di euro ciascuno. Il tribunale li ha ritenuti responsabili dei capi di imputazione BC, cioè false comunicazioni sociali relative alla semestrale del 2015, eccoci, e aggiotaggio. Gli altri reati sono stati dichiarati prescritti e per alcuni invece la soluzione perché il reato non sussiste. La banca invece è stata condannata a una sanzione da 800.000 euro, mentre per Paolo Salvadori, allora presidente del collegio sindacale, la pena è stata di 3 anni e 6 mesi. Quindi la condanna è di 6 anni a ciascuno, a Profumo e a Viola, per false comunicazioni sociali relative alla semestrale 2015 e aggiotaggio. Allora andiamo sul metodo della pubblicità, poi parliamo del turismo. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Sì, vedo che adesso dal Consiglio Europeo arriva un'indicazione che dice prepariamoci anche un no deal a nessun accordo con la Gran Bretagna, perché insomma l'Unione Europea, il Consiglio Europeo invita il capo negoziatore dell'Unione Europea a proseguire i negoziati nelle prossime settimane e chiede al Regno Unito di muoversi per rendere possibile un accordo. Però dice anche prepariamoci al no deal. Ora, se io devo sommare questo, cioè ne mancava solo la Brexit quest'anno, con un Trump che adesso dice che i social sono in mano alla sinistra e non ha mai ammesso che in caso di sconfitta che riconoscerà la sconfitta, è chiaro, non voglio parlare di tempesta perfetta, però ci manca solo questo tra novembre e dicembre, cioè Trump che crea un casino nel caso dovesse perdere e la Gran Bretagna che tira dritto sulla Brexit senza accordo. Qualcuno mi dice mala tempora, current, sì, questo può essere sicuramente, sed peiora parantur, dicevano i latini, ma speriamo di no, speriamo che non ne arrivino di peggiori ancora. Allora, Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, buonasera. Buonasera a tutti voi. Devo prenderla da qualche modo in maniera, non dico positiva, ma insomma, vediamo, costruttiva. E oggi non è facilissimo. Dunque, voi siete stati, lei ha definito il turismo un animale ferito, 245.000 presenze in meno. Ricordo che è in corso sia la manifestazione del turismo TTG Travel Experience che voi ieri avete fatto anche la 70ª assemblea annuale di Federalberghi, nazionale di Federalberghi. Parleremo dei tour operator dopo, adesso volevo parlare del settore alberghiero perché ho visto dei dati, l'Italia insomma perde metà delle presenze nel 2020, del 52% rispetto le presenze, meno 52%, meno 51% gli arrivi, 211 milioni di euro di mancati incassi nella tassa di soggiorno. Le regioni più colpite sono quelle, tra l'altro, che hanno i sistemi turistici più forti, forse, e quindi Veneto, Sicilia, Toscana, Lombardia e Lazio. Allora, il Veneto, il tasso di internazionalizzazione ha ridotto gli arrivi di 9,3 milioni, meno 63%. Lombardia, 6 milioni e 6 di arrivi in meno, meno 55%. Toscana, meno 6 milioni, meno 60%. Lazio, meno 5 milioni, meno 54%, Emilia Romagna, meno 4 milioni e mezzo, meno 52%. È un bollettino di guerra, nonostante qualcosa si siate riusciti a evitare con il turismo italiano che è rimasto in Italia. Però andiamo non solo al passato, Bocca, ma anche alle prossime settimane. Con quello che sta succedendo in Francia, Spagna, Olanda e Belgio e con i dati che abbiamo, diciamo così, è molto difficile che arrivino tanti turisti stranieri, voglio essere eufemistico, e in attesa di non avere nuovi lockdown. Che cosa chiedete al governo? Perché io continuo a dire che alcuni settori e anche dentro i settori, bisognerà distinguere tra chi ha fatto un meno 10, meno 20 di fatturato, perché magari era in Versilia, in Emilia Romagna, è riuscito quest'estate a non dico a parificare, ci mancherebbe, ma ridurre il danno, e chi invece, faccio l'esempio, il centro storico di Venezia, di Firenze, di Roma, non avendo visto un turista straniero poco, avrà un fatturato meno 50, meno 60. Assolutamente sì, d'altronde le regioni che lei citava prima sono quelle dove ci sono le principali città d'arte italiane, Venezia, Roma, Firenze, Milano, che sono le destinazioni che sono state massacrate da questo Covid, perché se il 52% è una media nazionale, deriva da un meno 20-25% delle destinazioni di vacanza, quindi mare e montagna, dove in alcune zone addirittura c'è stato un risultato superiore all'anno scorso. Per esempio? Per esempio la Puglia. Uh-huh. La Puglia è andata molto bene. Bene. Sicuramente ha perso il mese di giugno, però hanno fatto un agosto e un settembre sopra il 10% rispetto all'anno precedente. Dall'altra parte abbiamo le città d'arte che fanno meno 85%, perché le città d'arte italiane vivono quasi esclusivamente non solo di turismo internazionale, ma soprattutto di turismo americano. O comunque long haul, cinese più o medio orientale. Cinese, insomma, russo, americano, perché sembra che questo Covid abbia avuto una mira infallibile, cioè ha centrato tutti i mercati con alta capacità di spesa, uh-huh. Partendo dagli Stati Uniti, dalla Cina, dalla Russia, dal Brasile. Ricordiamo che il brasiliano è il secondo mercato di Capri. Certo. Per cui voglio dire, l'Italia è un paese che vive di quel tipo di turismo. Io dico sempre che il turismo va misurato in fatturato e non in presenze. Ecco, diciamo che quest'anno sono mancate tantissime presenze, ma soprattutto le presenze con alta capacità di spesa. Allora, guardando gli esempi all'estero, perché non è che in Francia e in Spagna, anzi leggevo i giornali francesi e spagnoli in questi giorni, c'è un settore anche lì in ginocchio, ci mancherebbe, però guardando eventualmente anche alle esperienze all'estero, voi che cosa chiedete? Ho visto che il governo ipotizzava di allungare il bonus vacanze a tutto il 2020, io l'avevo trovato un meccanismo un po' complicato, alcuni l'hanno usato ma hanno scritto, valeva per chi ha un ISEE fino a 40.000 euro, ma mi dica... Si affronta i 2 miliardi e 4 stanziati per il bonus vacanze, ne sono stati usati 300 milioni... Probabilmente credo che i numeri parlino da soli. Sicuramente è meglio 300 milioni che niente, ma il bonus vacanze è un aiuto alle famiglie. Ma se io ho un albergo chiuso, o se io ho un albergo in una città d'arte dove gli italiani non vengono, o se vengono magari non dormono in alberghi di prestigio, diciamola tutta, o vengono magari per periodi più brevi, insomma è diverso. Certo, cioè, con la fine di agosto l'utilizzo del bonus vacanze è finito. Quindi l'idea del governo di allungarlo al 21, perché da oggi alla fine del 2020 il bonus vacanze non se ne stacca più uno. Ma quello che diceva lei, che cosa noi chiediamo? Negli altri paesi sono arrivati i soldi direttamente sui conti correnti delle imprese. Quindi sono arrivati soldi a fondo perduto. Noi qua abbiamo avuto una serie di aiuti, tutti sotto forma di credito d'imposta, ma se io non ho le imposte da pagare, con che cosa lo compenso? Con nulla. Per cui noi chiediamo oggi misure che consentano alle aziende di sopravvivere. Ecco, cioè per non aiutare chi non ne ha bisogno e aiutare poco chi ne ha bisogno, lei è d'accordo che si dovrebbe iniziare a guardare ai fatturati? Cioè, una cosa che ha funzionato è stato nel decreto, quello che riguardava il mese di aprile, la liquidità dell'Agenzia delle Entrate data a chi aveva avuto cali del fatturato superiori al 33% rispetto all'aprile 2019 e lo Stato è intervenuto dando la differenza del 20%. Lo dico perché molti ristoratori e anche albergatori mi hanno detto personalmente che quei soldi gli sono arrivati a suo tempo in maniera anche celere. Ora, non avrebbe senso iniziare proprio a distinguere molto, voglio dire, anche tra albergo e albergo? Probabilmente se [S2] Certo. [S1] Sei un 5 stelle a Venezia che viveva di russi, arabi e americani, sei a un meno 70, meno 80, magari se sei un 3 stelle che ha avuto qualche italiano, qualche straniero che è venuto, ma non certo di big spender come li chiamate voi, hai solo fatto un meno 15, un meno 20. Lei dice una cosa sacrosanta, che è quello che diciamo noi, siccome le cartucce sono poche, bisogna sparare bene e mirare, perché se continuiamo a fare finanziamenti a pioggia, dando 1000 euro a tutti, il nostro settore non potrà mai risollevarsi. Devo dire che su questo, nell'ultimo decreto agosto, il governo è andato in questa direzione. Bene. Mettendo degli aiuti particolari per le imprese nelle città d'arte, che sono quelle che, come stavo dicendo prima, hanno sofferto di più. Ma da ora in poi il mio dubbio, ieri eravamo a Rimini, devo dire una bellissima fiera piena di gente, quindi che la gente ha voglia di muoversi, e poi quando è arrivato il dato dei 7.300 contagiati, devo dire che questo ha gelato, oggi 8.007, per cui diciamo che le prossime settimane, ecco, le vediamo in peggioramento. Sì, devo dire che gli alberghi non avevano mai ufficialmente avuto l'obbligo di chiusura, se non ricordo male, neanche durante il lockdown, Bocca. Il problema è che chiudevano perché gli mancavano i clienti, non per un obbligo, diciamo, nel senso che per motivi di lavoro c'è gente che si deve muovere. Io spero non si arriverà mai a un lockdown come quello di marzo-aprile, tutti lo escludono, casomai alcune cose mirate. Ma la vostra richiesta adesso qual è? Perché insomma è chiaro che devi posticipare tutto un insieme di incombenze fiscali, e su questo... immagino, però dice anche lei, inutile che tu mi dia il credito d'imposta se tanto io quest'anno non fatturo, vado poco, me ne faccio poco del credito. Quindi noi chiediamo innanzitutto una selezione, come diceva lei prima, delle zone maggiormente colpite e delle strutture maggiormente colpite, che è facile da misurare con la perdita del fatturato, e a quegli alberghi vanno soldi a fondo perduto, perché se io ho un albergo chiuso, o peggio un albergo in affitto chiuso e devo comunque pagare l'affitto, o tu mi dai soldi o io non so come fare. Per cui voglio dire, gli aiuti di cui noi abbiamo bisogno oggi sono aiuti in soldi. E la soglia del 33%, lo dico perché fu usata nel decreto appunto della liquidità ad aprile, le sembra una soglia corretta? Voglio dire, qualcuno mi sta scrivendo, io in parte sono anche d'accordo, vabbè, però se tu hai perso il 20% quest'anno puoi anche reggere un anno, voglio dire... Un lavoratore che dovesse perdere il 20% o è veramente appeso, e ce ne sono molti, però se no una struttura alberghiera che magari ha lavorato bene negli anni scorsi fa un meno 20 quest'anno, però insomma poi regge. Altra cosa se hai fatto meno 50 o meno 60, cioè lei già in mente una soglia? Ma guardi, se noi mettiamo una soglia del 50%, che mi sembra una soglia, perché voglio dire, se io perdo il 50% del mio fatturato qualche problema ce l'ho, certo. Parliamo di migliaia di alberghi, ecco. Perché, come dico, la media nelle città d'arte, dove ci sono tantissimi alberghi, è dell'80-85. Per cui voglio dire, io credo che il 50%... Quando sono aperti, perché ho visto per mia esperienza diretta, sia a Firenze che a Roma, insomma, alberghi che invece non hanno ancora aperto proprio. Ma addirittura alberghi che hanno aperto i primi di settembre stanno ricevendo. Perché tutti abbiamo provato a riaprire. Perché bisognava dare anche un segnale nei confronti comunque del nostro paese, non c'è niente di peggio di vedere i portoni chiusi degli alberghi. Però andare avanti con un 15% di occupazione che è destinato a scendere, perché non arrivano gli inglesi, non arrivano i francesi, non arriva più nessuno, lei pensi solo al blocco che gli svizzeri hanno messo sul Veneto. Sì, è una follia quella. Il mercato svizzero comunque per il Veneto era rimasto uno dei mercati su cui puntare. Qui si va a eliminazione diretta, cioè ormai non viene più nessuno. Sì, tra l'altro adesso lo dico perché conosco bene anche il mercato svizzero verso il Piemonte, la zona di Alba, delle Langhe, le Tartufo, sono tra i primi clienti. Adesso voglio capire cosa succederà, perché se gli svizzeri si muovono come ha fatto col Veneto, fra un po' guardano i casi del Piemonte, non glielo sto suggerendo, però iniziano a dire beh, neanche in Piemonte, quindi a quel punto perché avete visto anche voi un vantaggio nel cosiddetto turismo di prossimità, cioè tedeschi, austriaci, svizzeri, francesi che arrivavano in auto. Io ho visto anche auto inglesi quest'estate che non ho mai viste, cioè, in tale presenza. È l'unico turismo che ha funzionato, tant'è vero che a parte la Puglia, che è stato un po', anche perché in Puglia ci sono pochissimi alberghi, quindi diciamo gli italiani hanno fatto le vacanze in Italia e quindi dove c'è poca offerta hanno saturato. Ovviamente quell'offerta ha saturato. Però tutte le altre regioni hanno vissuto esclusivamente del turismo di prossimità, che è arrivato con le macchine ed è ritornato con le macchine. Cioè non ha fatto il solito giro dell'Italia. Certo, certo. Andavano alla destinazione questi macchinoni tedeschi e poi giravano la macchina e tornavano a casa. Per cui è quello il fatto che Venezia, ad esempio, è una delle città d'arte che è data meglio delle altre. Perché ha beneficiato di quei mercati lì, mercato tedesco. Tedesco, sì, più auto che treno. Senta, un'ultima domanda, Bocca. Quindi voi chiederete che cosa? Di porre una soglia intorno al 50% e andare appunto con finanziamenti a fondo perduto o a lunghissimo rimborso? Bravo, questo è l'altro tema. Noi oggi il decreto liquidità ha consentito dei prestiti a 6 anni con 2 anni di preammortamento, cioè significa che dopo 2 anni io devo cominciare a restituire il capitale, è abbastanza paradossale, voglio dire, perché un anno l'ho perso quest'anno, l'anno prossimo lo perdo sicuro. Se io chiedo un finanziamento oggi e all'inizio del 2022 devo restituirlo, o non lo restituisco o non lo prendo. Per cui noi chiediamo oggi finanziamenti, ma che abbiano una durata di 10-15 anni, e con un preammortamento di 4 anni, in maniera tale che io per i primi 4 anni pago gli interessi e poi me lo sposto in avanti. Solo così noi possiamo uscire da questa situazione, sì, perché è una crisi di liquidità la nostra. Ecco. È una crisi di... Sì, tra l'altro questo avrebbe vantaggio, per andare poi sulle proposte concrete da girare al governo, ma magari qualcuno ascolta, avrebbe vantaggio di non finire a debito diretto, perché questo in realtà è un prestito che lo Stato fa e lo riottiene dopo 10 anni. Diciamo, anche noi abbiamo fatto una proposta a CDP della sottoscrizione di mini bond. I mini bond, ho visto, sì. Cioè consentire comunque alle imprese che sono in regola con i bilanci, quindi alle imprese sane, perché noi dobbiamo aiutare quelle, le imprese sane, di emettere bond a 15 anni a un tasso dell'1-1,5% per permettere a queste aziende di avere la liquidità per superare questi 2 anni, perché tanto il momento che si troverà il vaccino ricominceremo più di prima. Sì, anch'io spero questo. Sì, garantiti dalla CDP, perché è chiaro che poi queste obbligazioni, lo dico, per avere un tasso basso e una durata così lunga devono avere un minimo di garanzia statale o diciamo pare statale. Questo è il medio credito centrale, sì, credo che può giocarsi la partita. Mi sembrano proposte di buon senso, sia perché vanno a distinguere tra fatturato e fatturato, e quindi da prendere in quel posto, scusatemi il francesismo, chi ha fatto del nero, ammesso che ci sarà anche nel vostro settore, non dico di no, e soprattutto perché si distingue, non tutti gli alberghi sono uguali, e si va a intervenire sulla liquidità. Ripeto, se non si vogliono dare soldi a fondo perduto, cioè che non riavrai più, almeno si diano prestiti a lunghissima scadenza con rimborsi magari fra 4 anni i primi rimborsi e a 10-15 anni, perché questo permette di sopravvivere. E sono d'accordo con lei che poi quando arriverà il vaccino e sto cavolo di Covid sarà finito, poi tornerete anche voi a fatturare, magari anche di più, perché magari tutte le spese compresse potrebbero essere riutilizzate. Grazie, in bocca al lupo alla categoria, a chi ha sofferto soprattutto. Grazie al Presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. Dopo parliamo anche del sistema fieristico, adesso però il GR24. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Il nostro divano, quante emozioni. Qui abbiamo visto Celebrity Hunted. E il tavolino della nonna, che ricordi. Qui è dove abbiamo messo la superfibra Wind 3. Ma un pensiero romantico? Guardiamo Modern Love. Scegli la superfibra Wind 3 a €28,98 al mese entro il 25 ottobre. Per te 12 mesi di Amazon Prime con film e serie TV di Prime Video inclusi. Copertura e condizioni su wind3.it. Vieni nei Wind 3 Store o chiama il 159. Wind 3, molto più vicini. C'è chi la sceglie per il suo stile, chi per la tecnologia. Io la scelgo per avere tutto. Gli incentivi Alfa Romeo continuano a ottobre. Scegli Giulietta e solo sulla pronta consegna con finanziamento Flexi di FCA Bank hai fino a 10.000 euro di vantaggi anche senza rottamazione. Anticipo zero e prima rata 1, 3 o 6 mesi. Alfa Romeo Giulietta. Facile raggiungerla, difficile superarla. Iniziativa valida fino al 31 ottobre, soggetta ad approvazione FCA Bank, TAN 675, TAI GOT 93. Info su alfaromeo.it. Per i nostri biscotti, fatti come una volta, noi della Doemi scegliamo ingredienti italiani come lo zucchero Italia Zuccheri, perché crediamo nella sostenibilità e scegliamo partner che, come noi, rispettano l'ambiente. Italia Zuccheri è una buona scelta, perché è l'unico zucchero 100% italiano. Seminato, raccolto e lavorato con cura da migliaia di agricoltori, con una filiera corta, sostenibile e tutta italiana. Italia Zuccheri. Coltivatori con cura. Caldaia nuova? Con Viessmann ottieni subito lo sconto del 50-65% dell'eco bonus. Vai su viessmann.it, contatta gli installatori partner e ottieni vantaggi al momento dell'acquisto. Viessmann, riscaldamento, climatizzazione, fotovoltaico. Ultima ora, il Gatto Tigro in concerto all'Arena di Verona. Basta fake news. Monge non ha bisogno di cantar storie. In Monge Natural Super Premium le fonti proteiche animali sono sempre il primo ingrediente. Le crocchette studiate per le diverse esigenze nutrizionali sono 100% made in Italy. La carne o il pesce fresco favoriscono l'appetibilità, senza conservanti e coloranti artificiali e no cruelty test. Monge, il pet food che parla chiaro e aspetta il festival per nuovi tormentoni. Gli attacchi informatici possono nuocere gravemente alle imprese. Scopri il tuo livello di sicurezza. Richiedi una valutazione immediata sul sito sanmarcoinformatica.com. Ma è possibile che c'è? Le piroette della politica, le notizie che arrivano da ogni parte del mondo, la cronaca nera, la cronaca bianca, lo sport, gli spettacoli, io non ci capisco più niente. Ma come si fa a seguire tutto? Scusa, ma tu ascolti Effetto Notte? No. Ah, ecco, si capisce. Effetto Notte, di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21, su Radio 24. In modo che un giorno non potrete dire: io questa mica la sapevo. 1, 2, 3, chi non scappa c'è, non scappate, restate con me, io mi faccio in tre per restare con voi. Tre appuntamenti quotidiani per investire ogni giorno in salute. Ve li ricordo: al mattino dopo il primo GR per cominciare bene la giornata, a mezzogiorno per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e poi ci vediamo in video per un confronto diretto tu per tu con l'esperto del giorno. Sono Nicoletta Carbone, vi aspetto qui su Radio 24 ogni giorno perché il nostro obiettivo è la salute. Focus Economia. Minuti. Allora, vedo molti messaggi su quello che dicevo prima. Sì, a me sembra che i dati diffusi così, non do la colpa all'ANSA ovviamente, servono a poco, perché adesso vedo i titoli anche a Lombardia record contagi. Attenzione, se uno va a prendere poi il numero di positivi sul numero di tamponi effettuati, si accorge che il tasso è del 6% in Lombardia e dell'8% in Campania, quindi il numero assoluto di nuovi positivi non serve a nulla, e vorrei per questo una spiegazione un pochino più articolata. Magari esce il comunicato dando i raffronti, io non mi occupo certo di virologia, ma di percentuali e numeri ogni tanto sì, allora devi darmi il numero tra i neopositivi, non il secondo tampone, anche quello sarebbe importante, neopositivi rispetto al numero di tamponi effettuati, e scopriamo che la media in Italia è il 5-8%, ma poi si arriva all'8% in Campania. Dico la Campania perché l'unico che sono riuscito a guardare in questo momento nelle agenzie è al 6% invece in Lombardia. E poi dovresti anche darmi il numero, se vogliamo essere corretti, di tamponi effettuati sulla base degli abitanti di una regione, perché è anche importante capire quanti tamponi si stanno facendo in base agli abitanti di quella regione come percentuale. I rapporti, in questo caso numerici, sono fondamentali, se no si danno numeri, la Dick of Dog. 1000 in Lombardia, 2000 in Lombardia, 1000 in Campania, 600 in Veneto, e non sappiamo quanti sono 600 su quanti tamponi nuovi effettuati, e anche il rapporto alla popolazione, visto che in Lombardia abitano più o meno 10 milioni di persone e la metà abitano in Veneto. Cioè, sono cose normali, dare le informazioni così, appunto, è a maggior ragione quando c'è preoccupazione. Adesso è uscita l'agenzia che il governo polacco ha annunciato un lockdown parziale nel paese, in tutto il paese. Allora, noi continuiamo invece a parlare di turismo, perché ciclicamente ogni giorno affrontiamo un settore diverso, e chiedo a Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group, quindi fiera anche di Rimini, che ha organizzato il TTG Travel Experience. Buonasera Peraboni. Buonasera. Senta, alla luce anche di quello che diceva Benabò Bocca, io ho trovato le proposte degli albergatori molto molto concrete, e a partire dal mini bot con garanzia di medio credito centrale, date liquidità e fatela rimborsare fra 4 anni, in modo che quando questo Covid sarà finito uno torni a fatturare e possa rimborsarla senza dare magari soldi a fondo perduto, ma chi ha perso più del 50%. Vorrei capire come si sta muovendo il mondo fieristico. Voi avete organizzato appunto TTG Travel Experience, è chiaro che c'è un tentativo in tutti gli enti fieristici di cercare di arrivare a una new normality, mi fa schifo come termine, però insomma a una via di mezzo tra presenza fisica e presenza digitale. Beh, diciamo intanto che quando sentiamo le percentuali di calo di fatturato di tanti altri settori che sono drammatici rispetto ai nostri, ci faremmo la firma. Quest'anno il settore fieristico in Italia perderà il 70% del fatturato. e quindi è una situazione assolutamente molto difficile. Però soprattutto con questa fiera sul turismo si è voluto dare un segnale che insomma il settore vuole partire, le community vogliono tornare a incontrarsi, e quindi con una serie di protocolli che sono stati messi in piedi, così come è successo in altre città italiane nei mesi scorsi, si è riusciti a fare una fiera, come diceva il presidente Bocca, dove c'è gente, si fa affari, si stringono accordi. Quindi il settore cerca di ripartire. Certo è che le condizioni di visitazione internazionale non ci sono. Ecco, il grosso vulnus oggi che hanno le fiere è l'impossibilità di raggiungere le nostre manifestazioni da parte dei quartieri fieri, dei visitatori internazionali. Se posso dare un elemento un po' di orgoglio del sistema italiano, è che oggi l'Italia è l'unico paese al mondo, al di fuori della Cina, dove si fanno fiere in presenza. Ed è un bel segnale. Senta, e come fate a reggere con un meno 70? Per questo ci uniamo al grido di dolore del settore del turismo e chiediamo anche noi ovviamente un intervento. Certamente il 2021 sarà ancora almeno per tutto il primo trimestre un anno di sofferenza, tanto che i tedeschi hanno deciso di riaprire le prime fiere da aprile. Questo vuol dire che ci sono delle fiere come la nostra, come il nostro gruppo, come altri, che sono un po' solidi e quindi possono pensare di reggere questa traversata nel deserto. Per una serie di fiere minori probabilmente il discorso sarà molto più complicato. E qui forse da un grosso problema possiamo trarre qualche spunto per fare passi in avanti. Per esempio, secondo so una porta aperta con lei che segue da anni con attenzione il nostro settore, se vi saranno interventi di sostegno al sistema fieristico nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, l'auspicio che non siano pioggia ma siano magari premianti per quei soggetti che superano le debolezze strutturali del sistema, magari integrandosi o facendo progetti di innovazione importanti. Ma state pensando anche voi a dei prestiti a lunga scadenza con rimborsi non prima di 3 anni, 4 anni? Sì, noi diciamo abbiamo avuto alcuni segnali importanti dal governo, ne cito due, uno economico e uno no. Quello non economico è stato negli ultimi DPCM non assoggettare più le fiere business to business agli eventi di massa, spettacoli, sagre e cose di questo genere, cosa che era successa nei primissimi DPCM. Il secondo è stato concesso tramite la SIMES di finanziare la partecipazione alle fiere internazionali non solo all'estero, anche perché non si fanno, ma di usare questi bonus per le aziende e spenderle presso gli enti fieristici italiani. E sono stati due provvedimenti importanti. Adesso oggettivamente serve un qualcosina in più. Il fondo che è stato creato all'interno del sostegno per il settore diciamo culturale, istituzioni culturali, riserva agli enti fiere, organizzatori di fiere, quindi tutti insieme, non solo i quartieri, quindi vuol dire se sono del mobile, se sono della moto, la fiera di Rimini, la fiera di Vicenza, di Milano, eccetera, eccetera, 7 milioni di euro. Ed è ovvio che non basta. Risorse no, ma io penso che più vi sento parlare a voi esponenti di vari settori, più penso che la soluzione sia non solo un indebitamento netto, cioè a fondo perduto, per carità, la liquidità poi, ma anche iniziare a sviluppare strumenti di finanza appunto garantita dal meglio credito centrale, dalla CDP, come mini bot che diano e mettere una soglia sui fatturati. Secondo me in maniera molto concreta bisognerà andare così, perché questo ha il vantaggio che un prestito dello Stato, per quanto a lunghissima scadenza, non è un fondo perduto, immaginando appunto che poi anche voi, come diceva Bocca prima, quando arriverà la fine di questo maledetto virus, magari il rimbalzo sarà anche più forte, quindi vi sarà anche un recupero di attività perse in questo anno. In bocca al lupo a lei, ma indico a tutte le fiere, a tutti i sistemi fieristici italiani. Grazie quindi anche a Corrado Peraboni, mi sono legato di Italian Exhibition Group. La borsa ha chiuso, non vi avevo dato la chiusura, forse è malino, meno 2,80%, meno 2,11% Parigi, meno 2,5% Francoforte, Dow Jones meno 0,45%, Londra meno 1,70%, Poste Italiane perde il 5, come Tenaris e Intesa San Paolo, il 4,30 Pirelli, il 4,20 Moncler, il 4,20 anche Eni, Unipol meno 4% come Leonardo e Mediobanca, Exor meno 3,80 come Azimut e Atlantia, il 3,5% perdono le generali. Adesso andiamo sul non sul traffico, perché il traffico adesso non c'è, E invece vorrei parlare di un appuntamento che inizia domani e che cercherà comunque, con tutto questo scenario, di guardare al futuro del, dell'impresa italiana in questo caso. Sì, parliamo di impresa perché domani inizia e si concluderà poi sabato il 35esimo convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. Tradizionalmente, l'abbiamo seguito per anni, ogni anno, si teneva a Capri, chiaramente per motivi di Covid, di sicurezza si terrà invece a Roma, ma sarà comunque in presenza, chiaramente nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. Allora, il tema di quest'anno è futuri appunto pronti all'impresa. Parteciperanno vari imprenditori di tutti i settori, dal digitale alla meccanica, dall'energia alla parte diciamo più manifatturiera, ma anche molti rappresentanti del governo, il ministro dell'università Manfredi, Gaetano Manfredi, il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina, il ministro degli affari europei Enzo Amendola, la ministra per l'innovazione Paola Pisano e quella del lavoro Nunzia Catalfo. Concluderà i lavori il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Allora, ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Riccardo Di Stefano. Buonasera Di Stefano. Buonasera, grazie dell'invito. Dunque, visto che, come ricordavamo anche ieri e nei giorni precedenti, è un periodo da un certo punto di vista anche fisiologicamente di forte dialettica tra le imprese e il governo, Bonomi ieri, presidente di Confindustria, ha chiesto di non sprecare un'occasione dopo 25 anni di riforme mancate, quindi di non sprecare l'occasione del, non solo dei soldi del Recovery Fund, ma anche delle riforme che non sono state fatte in questi anni. L'apporto che voi potete dare a una discussione che è appunto dialettica, che c'è delle volte appunto anche con punti di vista diversi tra il mondo delle imprese e il mondo diciamo e chi governa, qual è? Perché la prima cosa che mi viene in mente è che voi, essendo appunto giovani imprenditori e comunque rappresentate il futuro giovane delle imprese, mi passi il termine, forse avete ancora più a cuore rispetto a una persona diciamo di età più avanzata il modello di paese che si va a costruire. Assolutamente, è verissimo. Infatti diciamo il tema del convegno di domani è proprio un atto di grande responsabilità e di coraggio in un momento in cui ovviamente è complesso organizzare momenti in presenza, ma per noi era un'occasione irripetibile di riflessione, di proposta, in quanto da giovani e da imprenditori siamo estremamente ingaggiati in quello che sarà il futuro modello del paese post lockdown. La pandemia ha cambiato tutti insomma i paradigmi con i quali si muoveva la nostra economia, il commercio internazionale, e ci troviamo in un crocevia per cui possiamo decidere di utilizzare il debito tanto che stiamo creando e che creeremo per diciamo aggredire i mali strutturali del nostro paese, quei mali che ci avevano resi prima del lockdown un paese con la crescita allo zero virgola, con una produttività ferma al palo da 25 anni, con un tasso di disoccupazione giovanile allarmante, e invece utilizzare queste forme per fare, come direbbe, come ha detto Mario Draghi, un debito buono, sostenibile e che ci permetta di creare una rete di infrastrutture digitali e di competenze digitali in grado di diciamo dare una svolta alla nostra economia, investendo su una formazione di qualità, di competenze tecniche, organizzando il lavoro in modo che possa davvero essere all'avanguardia e affrontare le sfide che questo paese attende. E quindi per noi Next Generation EU non è e non può essere soltanto l'ennesimo spot, perché mi faccia dire, siamo stati per tanti anni, per tanto tempo, un argomento di dibattito, ma mai un argomento di riforma, mai diciamo un tema prioritario nelle politiche pubbliche. Quindi vogliamo dire la nostra su un debito, su un investimento di risorse pubbliche mai cioè, così, certo, che andrà a pesare poi sul futuro anche, e che pagheremo noi, e sulle, che per gran beh, certo, parte del, ma lo pagheremo del anche noi, però lo pagherete, lo pagheremo soprattutto tutti, ma certo, ricadrà sulle generazioni future ancor più, sì, certo, che sugli attuali. Quindi diciamo è una questione generazionale, noi vogliamo affrontarla con lucidità e con proposte lungimiranti. Ecco, senta Presidente, lei citava Next Generation EU, che ricordo agli ascoltatori è il vero nome del Recovery Fund, cioè, esattamente, perché vuole occuparsi non solo di un recupero dell'attività produttiva per il presente, ma di porre i pilastri per un'economia ancora più competitiva, sia sul fronte della digitalizzazione che della sostenibilità economica, che dell'inclusione sociale e sostenibilità ambientale, volevo dire, scusatemi, e inclusione sociale per le nuove generazioni, che siete anche voi, ci mancherebbe, tutti quelli, io ricordo che per statuto i giovani imprenditori devono avere meno di 40 anni. Che cosa chiedete, visto che avrete una folta, diciamo, delegazione, mettiamola così, del governo, e che cosa invece lei chiederà ai suoi associati? Perché è chiaro che ho visto alcune delle tavole di discussione, l'impresa di innovare, beh, è rivolto forse più ai suoi associati oltre che al governo, ma quali saranno quale sarà il doppio fronte delle richieste verso l'esecutivo e verso i vostri associati? Allora, nei confronti del governo, che appunto poco fa citava, sarà presente con una buona compagine, chiediamo che le politiche pubbliche nei prossimi anni diciamo diano speranza e diano futuro al nostro paese, che investano in innovazione, chiederemo con forza che Industria 4.0 venga, diciamo, confermata, rifinanziata, se ne allarghi il perimetro, per esempio, che renda che sia, diciamo, cedibile al sistema bancario, in modo da dare più finanze, più spinta propulsiva agli investimenti privati. Chiediamo di poter contribuire alla formazione in azienda, diciamo, a un dibattito sul tema serio, serissimo, delle competenze in questo paese, che è un tema con cui si scontrano piccole, medie e grandi imprese ogni giorno, e chiediamo di poter avere un costo del lavoro più sostenibile ed in grado di essere competitivi nei mercati internazionali. Quello che chiedo ai miei associati è principalmente di credere ancora in questo paese, di credere nelle nostre straordinarie opportunità, immaginare investimenti e progetti sempre più sfidanti. Questo è il nostro lavoro e abbiamo dimostrato anche nel post lockdown di saperlo fare, perché i dati degli ultimi giorni dimostrano che se c'è un rimbalzo e questo è dovuto alla manifattura e a quello, ai risultati che sta registrando. Ecco, su questo, e per concludere, Presidente Di Stefano, chiaro il doppio fronte delle richieste. Qual è la cosa che vi preoccupa di più in questo momento? Che ci preoccupa perdere questa occasione, ci preoccupa ritrovarci tra 10 anni con un debito pubblico insostenibile, con una bilancia previdenziale non più sostenibile. Quindi abbiamo paura di un futuro che non ci renda possibile coltivare il nostro paese. E allora quello che chiediamo è di fare debito con responsabilità e di metterci nelle condizioni rendere questo paese più sostenibile, più equo, più moderno, più inclusivo. Quindi per noi è determinante, è un momento determinante per la storia del nostro paese. Allora, in bocca al lupo a voi, a tutti i partecipanti, anche nella speranza che, appunto, gli stimoli che voi portate sia verso la politica, quindi il decisore politico, sia al vostro interno, verso gli associati dei giovani di Confindustria, e quindi, appunto, credere nel paese significa poi anche investire nelle imprese e essere a vostra volta alfieri dell'innovazione a partire da quella digitale. In bocca al lupo, noi seguiremo chiaramente nei GR24 venerdì e sabato il programma dei lavori. Grazie ancora al Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano. Grazie a voi. Mentre non ringrazio chi continua a insultarmi con atteggiamenti, chiamiamoli così, negazionisti, facciamo così, leggiamo le ultime notizie. Allora, in Toscana Centro, hanno sospeso tutte le visite, la notizia di adesso, da domani, venerdì 16 ottobre, a eccezione di casi particolari, tutti gli ospedali dell'ASL Toscana Centro, quindi Firenze, Prato e Pistoia, sospendono le visite per evitare assembramenti a rischio di contagio. Ancora invece a Milano gli ospedali Sacco e Fate Bene Fratelli accetteranno solo malati Covid, perché vengono dirottati sugli altri ospedali. È un provvedimento per dirottare sugli altri ospedali gli altri tipi di interventi, quindi Sacco già da prima, ma anche Fate Bene Fratelli diventeranno solo ospedali Covid, e gli altri tipi di interventi verranno, quindi pazienti con patologie urgenti e indifferibili, verranno dirottati su altri reparti. Chiudiamo questa bella giornata con il fatto che a Milano l'indice RT ha, l'ho detto, sala nella città metropolitana è sopra il livello di 2, e quindi con buona pace anche di Gallera, questo vuol dire che uno ne infetta 2. E invece Londra poco fa ha imposto la quarantena anche per gli arrivi dall'Italia. L'Italia era fuori dalla quarantena, però adesso è arrivata la comunicazione del Ministro dei Trasporti, quindi l'Italia non è più tra i paesi sicuri sul fronte Covid, quindi chi arriva nel Regno Unito dall'Italia a partire da domenica deve osservare un periodo di 14 giorni di auto-isolamento. Noi ci risentiamo domani con un'altra puntata di Focus Economia dalle 17 in poi. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it